scorsa estate, che d'inverno sono ancora, e mi mandano in modo si andate, scontente della vita, umile fichine. Come pulci dello stesso cane, che raccoglie non potete sprare, che si scambiano parole a mare, si canicerà, porterò di qua. Come un regno perse la stazione, che si struggono di nostalgia, derubati di utopie piovose, di notti tempestose, passati in mireria. Come polvere di strane accuse, è uno specchio che non ride mai, è un bicchiere pieno di persone, di tenere d'amore, tu te ne dava. Effetti personali, non metterci le mani, potresti forse avere delle strane sorprese. Effetti personali, ci parlano le ali. Lasciali qui venire, hanno poco da dire.